9,5 a poco più di 9,20. Sono cambiati alcuni condensatori perché era mezzo bruciati, poca roba, cioè è stato cambiato e basta. È una lampadina che lo smitter, dove c'è lo smitter affuminata, nient'altro. Aspetta, Tony, guarda a me un attimino. Così sono con il vato dell'apparato, guarda un pochino. Aspetta. E questo è un aiutino, piccolino. Guarda, 1, 2, 3, gli stessi vati che hai tu. Qua sei 9,30, giusti giusti, capito? Sì, adesso è staccato. Prova. Guarda un pochino, 1, 2, 3. Guarda anche tu, Roberto. Così è staccato, eh? E così è staccato. Da 9,20 a 9,30. Qua da 9 a 9,15 passa. 9,15 con i picchi quasi a 9,20. Un aiutino. E come mi va? Questo c'è, ciao fra. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera anche a te. L'aiutino perché a volte arriva qualche importante e ci rompe le palline. Però io e noi, non c'è. Perché fra problemi? Ma arrivo a te, ma devo aumentare. No. Io credo dove arriva. Tonino. Adesso sei salito ancora di più, oltre 9,20 abbondante, quasi 9,25. Una domanda, ma quella capsula microfonica c'hai da novata all'interno? Hai provato a metterla per attenuarla un pochettino? Aspetta. No, non l'ho fatto perché non è competenza mia, io faccio tutto un altro genere di mestiere. Ammazza. Aspetta. Così, va bene. Cavolo, come eri poco fa andavi benissimo, non farla toccare. Ehi, va bene così, dai. Adesso non ne hai meschi, ma poco te ne hai iniziato, mi sei alzato il baracchino quando stavi innescando. Oh Tino, io quando ti arrivo per curiosità? Aspetta, ti do due controlli, eh. Ho quello, diciamo, più importante, dai, con l'apparecchio più importante. Prova. Allora, 1, 2, 3, prova, canale 10, 27, 0, 75. 9, 18, 9, 17, 18, 17 così. Mette a Torino quando gli arriva? Quasi 9,30 quasi, 9,28. Cavolo, è tanto. Vabbè, adesso voglio chiedere a Fabio, siamo attaccati, vediamo a Fabio quanto gli arrivo, dovrei arrivare abbastanza, perché anche lui ha migliorato tantissimo. Mi sta attaccando il più dell'apparecchio più sotto che ciò. Addirittura, ok, vabbè, noi siamo attaccati, non ce l'ho, era solo per curiosità, per vedere se in ricezione funzionava, perché tu hai migliorato tantissimo, da 9,5 sei passato a 9,35, adesso ha avuto un miglioramento spaventoso. E comunque va bene anche con questo, Diciamo che sono similari, solo che quello me lo va più preciso, ma qualche tacchetta in più per quasi 9, quasi al 9,20, 15, 9,18. Ehi, vabbè, diciamo, tenete presente, la regolazione degli apparecchi, allora è 440, tarato dalla casa, per fare un S9 ci vogliono 300 microvolt in ingresso, il 140 per avere l'S9 ne bastano 150, esattamente la metà. Io ce l'ho tagliato tutti e due a 150 microvolt, ossia il 140 per 4, il 440 sono stati tarati esattamente uguali, per cui molte volte dobbiamo stare attenti quando diamo i controlli a secondo degli apparati. Quelli di nuova generazione addirittura sono ancora più restii, quelli grossi, lì come il 7000, quello che c'è è ancora più restio, è regolato diversamente a 200 microvolt per avere un S9. Infatti, controllami invece questa modulazione, se è troppo amplificata, perché poc'anzi Luca mi ha detto che salvo ero troppo amplificato, l'ho abbassata, però diceva che non stavo andando troppo in amplificazione. Allora il discorso è questo, Tino, tu stai lampeggiando il rosso, se tu parli con questa tonalità tranquillo senza alzare il tono della voce è sopportabile, se alzi appena un peluzzino saturi, parliamo di regolazioni precise strumentali, per cui se vuoi abbassarti un pochettino forse è meglio, perché secondo me è leggermente troppo alto. Bene, non c'è problema, basta che me lo dici. Guarda, sto andando abbassando, prova a parlare adesso. Guarda un pochino, 1, 2, 3, prova di modulazione, tanto parlo sempre solitamente a questa distanza e a questo tono. Sì, no, per me è perfetta, questa è la regolazione ottimale. Ok, vediamo un pochettino, ma c'era anche Franco da Sorso, avanti Franco. Franco, allora io ho volume a 4, figurati, con il più 4, quindi 4 più 4, è da ricordare. Franco, riprendi. No, Franco è salito su a spegnere il radio sicuramente. Io non capisco come ci sono questi cambiamenti di segnali di delle persone, buh, certe volte arrivano furti, altre volte 7, 8, 9, poi 9, 10, buh, è assurdo, cioè che ci siano questi cambiamenti anche dandoli non così tanta potenza. Guarda, io sto usando un 747. No, no, io parlavo di Franco, perché a Franco lo sentivo molto più forte di adesso, buh. Non so, questo è, secondo me è spinto per questo 747, perché io ne avevo due, e l'altro era forse leggermente più... più restio a dare il watt, e questo ha dei picchi allucinanti, va, supera anche, mi sembra anche strano, supera anche i 100-110, a volte anche 130 watt. Ok, Bianco, fermi un attimino, scusa. Bene, bene. Tonino. Io voglio fare un'altra prova. Guarda se mi aumenta qualcosa. Così com'è. Allora, ti aumenta il segnale, però ti abbassa molto la radio. No, qui ti lascio così, dai. Non voglio strafare io comunque, dai, la lascio così. Cos'è, un B300? Magari. Sì, magari. Io ce l'ho, lo sto vendendo, figurati. L'ho detto, questo, allora, è il famoso BV131, però non l'hai da tutti. Ho capito, io ne ho un altro a valvole, con due valvole, lo stesso bello, grande, però no, lascia perdere, va, sono più comodi questi piccolini che tanto vanno bene uguale, non devi stare lì né accordare né a fare. Io quello che avevo io, addirittura al 131, avevo l'intensità della luce, non so se c'è anche quello così, quando la luce era proprio forte forte era accordato, io andavo a occhio, non andavo a strumento. No, questo non c'è niente, c'è lo switch e basta. È una manopola sola. Sì, infatti, è una manopola sola, però quando l'intensità era diciamo al 100%, che perché se andavi oltre allora si abbassava, se diminuivi si aumentava, allora lì dovevi fermarti. Beh, se hai più ingresso qua giustamente, a BV, tu che ti attiro dietro, ti aumenta leggermente, però ti satura la voce, ti ruba la modulazione. Invece lo metti a un'entrata di 3, 4, 5 watt massimo, va bene. Sì, ma infatti va bene, lascia stare, tieniti quella regolazione lì perché va bene. Dovrebbe essere la mia modulazione di tanto tempo fa, se ricordi. Sì, vabbè, io ti conosco in verticale, conosco anche la tua timbrica, quindi puoi cambiare anche il radio e ti dico che sei tu. Il mio orecchio si ricorda. Qualche altra persona mi ha riconosciuto al volo, anche Claudio. Beh, certo. Chi c'è in questa parte? Avanti. Sono rientrato io. Tony, una curiosità. Dimmi tutto. Io noto delle differenze. Io forse lo sai cos'è il problema tuo. Che tu molte volte ti sposti magari con la testa, quel microfono è molto direttivo, direzionale, perché noto in certi momenti è bellissima, pulita, in altri momenti forse come ti sposti diventa un po' più metallica. Sì, mi ero alzato poco fa che ho fatto una piccola manovra e non ero più diretto al microfono. Adesso in questo passaggio ti ascolto pulito, perfetto. Sono diretto al microfono, io mi sono alzato, ero seduto poco fa. Allora qualcosa cambia, lo vedi, questi microfoni sono abbastanza direzionali, non sono di quelli aperti, diciamo, omnidirezionali, che magari ti sposti anche di fianco, magari il 60 ne risente di meno di quel problema, come l'MB più 4 e il più 5, sono molto direzionali perché hanno quel condotto dove c'è la cascola che è molto arretrata, ti fa un effetto tromba, tipo i diffusori acustici, che ti danno molta direzionalità, e per quello conviene mettere dei coso, dei, come si chiama, dell'ovata all'interno, nelle pareti interne, magari se riesci a mandarla un pochettino più in fuori la capsula, quasi al limite, vabbè, lasciamo perdere, quelle sono cose piccolette, se no va bene anche così. Sì, è leggermente, cosa sarà? un centimetro all'interno della capsula. Sì, sì, no, ma stiamo parlando di cose molto, molto scrupolose, dai. Io ti sto ascoltando con un altro parlante un po', diciamo, discreto, dove metti da fuori tutti quanti i difetti, dai. Poi in un baracchino normale, con un altro parlante normale, uno neanche se ne accorge. Io sto cercando di trovare il pelo dell'uovo. Quando mi chiedono certe informazioni cerco di essere il più critico possibile, però per cercare di migliorare la situazione, non per essere critico, diventare antipatico e presuntuoso, come qualcuno mi può valutare. Assolutamente non è nelle mie cose fare queste cose così, di credere, cioè di credermi superiore. Ecco, anche io stasera facevo schifo, me l'hanno detto tutti con un microfono e lo accetto tranquillamente, infatti era soltanto una prova. Poi se uno non li vuole accettare le discussioni e le cose, buon per lui e peggio per me. Ma non so se nell'ascolto anche stasera la Fifi ha detto a me mi va bene così. Che avanti. Sei completamente saturo, 9 più 10 è abbondante, radio quasi incomprensibile, troppo satura. Ciao Gianni, anche io confermo, un po' saturino, Sì, satura anche da me. Ciao Caprillo. Mamma mia. Sta peggiorando? Allora Gianni, mi spiace dirtelo, sei quasi incomprensibile, conosco solo un po' la tua voce, l'ho riconosciuta, se no quasi non si capisce quello che dici, sei troppo saturo, ma è un apparato nuovo, un microfono nuovo, spiega un po'. Mi sono mai contenuto nel radio. Direi a staccare tutto. Aspetta, spaccato. Stacca tutto Gianni, che fai danno, sì, adesso assolutamente è proprio un'esplosione, si è sentita, stai completamente saturando, o c'è troppo pilotaggio o non lo so cosa sta succedendo. Franco, ti stavo chiamando, dove vedi? Scusa, ma me l'ho tornata per il mio caffè, sono andato giù, insomma, niente. Capita, non c'è una villa, lo conosco 20 anni a Caprile, non c'è una villa di inteso bene. Vabbè, sta sperimentando, dai, sta provando qualche cosa. Ma ieri più andava avanti e più la radio andava fino a zero, ma proprio brutta, Non lo so, io non lo so, chiedi a Martino se lui è più informato di me. Ho letto qualcosa su quel gruppo che c'è su Facebook, il Marketplace, c'è un finalino, non so cosa sia. Chiedi a Martino, lui forse è più addentrato di me, avanti, oppure qualcuno se sa qualcosa. Ma cosa ti serve? Un valvolare, cosa ti serve? Io ne ho uno portato di mano, lo sto dando perché non me ne faccio niente, non... E diciamo la verità che con la radio che ho io non va bene, quindi no, vogliono provarti. Questo dovrebbe dare intorno al 220-230 watt, un valvolare, due valvole. Guarda, io meno di 200 non lo do perché è così, i prezzi sono quelli. Guarda, ecco, non ho la... cazzo di marca, non mi ricordo neanche, non devo guardare. E quello nero o no, ti posso mandare anche la foto, Guarda, c'è Massimiliano, credo che ce l'abbia quella foto di Massimiliano Bulldozer, non so se sei in contatto con lui, no, non lo so, ho anche un B300, ma quello, vabbè, io l'ho utilizzato anche in casa, non è che solitamente lo usano in macchina, ma non so se conosci della ZG. Io ce l'ho 31, ma non lo do. Dai, io riprendo per fare quel ritiro. Ti saluto, adesso sta uscendo bene radio chiara forte 9 più 5 il segnale, di così devi uscire Gianni, è inutile mettere sporcizie a cose successive che creano solo problemi. Stai andando alla grande, ti ascolto perfettamente, radio 5 il segnale 9 più 5, mentre Franco da Sorso lo sento poco meno di 9, ti ho ascoltato un po' più forte ultimamente. Tino, Fabio e Coso e Tonino a Vuglia, arriva la bomboletta. Allora ok, dai, vi saluto adesso a tutti, io faccio corretti, ci sentiamo in altre situazioni. Aspetto il finalino e poi vado via. Vai Tino, ciao. Bene, va bene, ciao Roberta, già avremo modo di ascoltarci anche domani, se tutto va bene. Buonanotte, tante cose belle, buona carica e buon inizio di giornata per domani. Avanti Tonia. Ok, ciao Roberto, buon corretti. slot 144, a domani, stare bene. Avanti KP2. K27. Ciao Roberto, me l'ho ascoltato, dai. Vabbè, sto uscendo con pochi watt perché è ancora fredda la radio, è fredda e si deve ancora ricaricare. Ciao, comunque, buonanotte, buon tutto, ci ascoltiamo le prossime. Ciao Gianni Capridù, lasciala così la radio che va benissimo Gianni. Vabbè, non c'è più, ti saluto e buon pomeriggio a tutti. Ehi a Gianni, ma guarda, se vuoi, io non so neanche dove trovarti, se no te l'avrei anche fatto provare, per quanto non c'è problema per quello, tanto non è che... Poi bisogna vedere anche con che radio lo utilizzi, questo è dedicato alla 27, è quello che ho io, quindi è una cosa che dovresti utilizzare con apparati radio che hanno insomma 5 watt, non esageratamente alte, capito? Perché giustamente poi va a sporcarsi la radio, anzi se è una radio che ha la possibilità di abbassare anche il watt ancora meglio, meno pilotaggio e più rende, capito? Vabbè, non lo so, sinceramente non saprei come trovarti, se no te l'avrei anche piazzato, fatto provare tutto quanto, non c'è problema per quello. Se c'è Claudio disponibile, magari un giorno, vediamola. Scusate ragazzi, io annuncio Corretti e saluto tutti, saluto il circolare, ci sentiamo nei prossimi video, grazie di tutto. Bene, bene, anche tu dai, ci stai, anche io fa un po' bene. Ancora un paio di passaggi e poi anche io vado a nanna. D'accordo, ci si riascolta, ciao, tante cose belle, ciao, riprendi fra. Ecco, non ho capito se sta chiudendo o niente, perché l'ultimo passaggio non l'ho ascoltato per niente, Tino. Sì, sta salutando, sta chiudendo. Ecco, dai. Ciao Gianni, allora dai, ciao Gianni Capridue, me ne ascoltiamo, tutto, ce ne ascoltiamo le prossimine. Avanti Tonino. Ciao Gianni, buon curetti, saluto. Ma che so, come ti arrivo? Sì, ma non è Gianni che se ne sta andando. E chi è lo stando via? Vabbè. Cosa cambia però? Anche la ventola si è accesa, no, ci posso credere. Perché c'erano altre persone sotto? Sì, ma magari non ascoltavi, dai. Pio a me mi arrivava, sapevo 4-5 non di più. No, io non ascoltavo per niente. Ma è da sorso, come ti arriva a te? Sì, buono, 9-5, radio 5. Ok, dai, ci va bene. No, Gianni non senta andare, Gianni, no, a te ho rilanciato, cioè, hai capito, ma stavo dicendo, se nel caso se coincide, al limite ci sentiamo con Claudio e ci facciamo una scappata, dai, con Gianni parliamo, hai capito, vediamo, dai, non c'è problema, vabbè, signori, io ne approfitto ormai anche perché anche io devo forse lavorare, se va bene ormai, quindi devo fare sì, insomma. Stamattina lo stesso è andata a buon fine la cosa. Niente, vi saluto, rilancio a Tonino, ascolto il finale e poi vado via. Ok, ciao davanti, buon curetti, buon 144. E mo tre macchi, domani c'è tre macchi. Ci sentiamo alle prossime, avanti già. Ehi capo. Sì. Ciao Tino, dai, buon tutto. Ce la riascoltiamo, buon lavoro per domani. E buon tutto, niente, io per domani Tino mi ho preso la giornata libera, il principale me l'ha accettata. Ci sentiamo, ciao. No, a me fa fare anche il problema, è pochissimo, per carità, e vabbè, là, ci vogliono anche quelli, che a fine mese già, vediamo, insomma, non disturbano, avanti. L'importante è che arrivino sempre, avanti Tony. E cappa. No, io sono a casa per forza maggiore invece, sino al 18 luglio, signori Billy, pagato. Ecco, io sono già 2 anni a casa pagato. No, aspetta, io sto lavorando. Giustamente per il fatto del coronavirus posso fare delle analisi e il medico del lavoro mi ha detto, per sicurezza, siccome sono cardiopatico, mi ha detto sta parte da casa, quando fai, se riesci a fare entro questa settimana una vita cardiologica, mi porti l'incito, stai già iniziando a lavorare, sono un po' di giorni fermo me. Ecco, sì, allora è giusto così, aspetta, non sono tutte le aziende che lo fanno quello, eh? Lo so, ma lavoro alla ditta sede, dai. Ecco, buono. No, io stavo scherzando, sono già 2 anni a casa, sono in pensione. Bene, a te. Ma io poi ci sono già 22 anni, non è ci sono un giorno, l'altro anno me ne vado in pensione. Ecco, vabbè. Ah, di Gianni. Tino, dimmi. Tutto Tino, okay. Io ce l'ho, 131, lo sto usando, nuovo, ma questo non lo do io. E comunque io sono Tonino, non Tino. Tino ha fatto Quaretti. Un apparato, quando fai funzionare, io quando sono mancato per un bel po' di anni, parecchi, e ho tutto venduto, non so più niente, poi dov'è? quasi, circa un mese e mezzo fa, non di più, non mi rifaccio la stazione, vediamo che c'è, e quindi neanche, diciamo, un mese e mezzo ho tutta la stazione completa. No, mi avviare guadagnino, io sono entrato alla 74. Break? C'è un break, avanti. Ehi, un controllo radio per favore, me lo date? 5, buona. Amplificata, eh. Ora, non mi sento. Poca già. È amplificata la radio? Poco? Yes. Quasi niente. Ora, 1, 2, 3, prova. Sì, a flusci. E adesso come va? 1, 2, 3, prova. Ha aumentato il segnale, ma la radio siamo sempre lì. Ha aumentato il segnale, è abbassato. No, ha aumentato. Tu a me ha aumentato il segnale, la radio si è abbassata. Qua è il contrario. Ma la radio? Oh, la è, si è abbassata. 9.30 segnale, ma la radio poi sta abbassando, sì. Gianni, di radio come ti arrivo giù a Muros? Ok, sto usando un tarde più 3B da tavolo, quello grigio. Avanti, Franco. Ehi, capo. Sì. E vabbè, adesso probabilmente mi ascolta meglio Gianni da Muros. 74, sì, 574. Gianni dovrebbe essere facendo qualche altro lavoretto ancora, dovrebbe fare. Sì, tutto bianco, frontalino nero e tutti i pomelli cromati argento. Capa. No, io sono fanatico per le stazioni base. Io se lo trovo un altro me lo compro, a occhi chiusi. Mi piace troppo. Questi armentatori a me, no, non mi piace per il maramobile, no. Se trovo un'altra stazione base, io me lo prendo, anche se 40 canali non mi frega niente. Cappa. Cappa. Sì, sono belle quelle radio lì. Sono bellissime perché sono base, come dice Torino, sono bellissime. Sì, quelle funzionano anche a 220, funzionano. Gianni. Ma queste stazioni fisse che hai, qualche due la stai vendendo? Ma anche se non vuoi vendere, fare scambio, a me va bene, che io ne uno per macchina, 240 canali, AM, FM, SSB, tutto quanto, e anche serigrafato tra l'altro. E quindi mi sembra un baracchino, minimo 40 canali, stazione base, che sia anche chiarino, giustamente, per fare scambio. Ecco, sì, sono belli apparecchi comunque, dai, anche tenerli, però se uno piace il base, è bello, come sta dicendo Tonino, fare anche uno scambio con un'altra radio. Bene, io guarda, ho solo quello, quel che ti ha detto, forse non lo so se te l'ha detto Claudio, che ce l'hai tu anche uguale al mio, e c'è bene, come radio, guarda, ti dico che c'è bene, solo che il mio c'ha un problemino sulla, quando va in banda laterale, la, non ascolto gli altri, dai. che non riesco a centrarli, perché magari c'è il potenziometro che avrà qualche problemino. Avanti a te. Sì, ma non sono mai venuto, capito? Sono passato dritto con la macchina, basta. Capo, io riprendo Gianni e vi lascio perché me ne vado giù, me ne vado, vai. E ce la ascoltiamo alle prossimine. Grazie del piccolo questo e ce la sentiamo alle prossimine. Ciao, ciao Gianni e ciao anche a Tonino. Buon proseguo, buon tutto, ce la ascoltiamo. Avanti, prendi Tonino e fai girare. Ok, ciao fra. Buon cuore tipo 144, a domani. E buon riposo domani, che dato che non trabacchi. Ok. Avanti Gianni. Perché che lavoro fai? Dicendo delle scuole. Capito. Anch'io lavoro, ma per tutte le scuole superiori però, faccio manutenzione. Allora, io ho un piccolo problema. Sono cardiopatico, l'ho superato, diciamo, il periodo critico 2015, però giustamente ogni anno io faccio la visita, mentre sto andando bene. E ogni anno che faccio la visita, che mi danno un documento, come che sto andando bene, io prendo anche 9 pastiglie al giorno, non ho avuto nessuna operazione, grazie a Dio. Il studio che mi danno, devo fare la copia dal datore di lavoro al dottore di lavoro che ci abbiamo. Però quest'anno purtroppo non l'ho potuto fare perché c'era coronavirus. E quindi mi ha sospeso leggermente sì quando non faccio questa benedetta visita. Ma niente di particolare. Volevo in cassa integrazione e ho detto no, rimane malattia che è meglio, ma è tua dita, quindi. Si prende anche la protezione per lo stomaco, giustamente. Le prendo l'orario, ho migliorato il 100%. E sono già oltre 5 anni che non fumo più. Prima fumavo, non è dipeso dalla sigaretta, però ho avuto uno scompenso cardiaco, tutto qua. Tra l'altro, a parte il lavoro, prendo anche una pensione abbastanza notevole ogni mese. Sì. Mia sorella se n'è andata via 10 anni fa. Mia madre c'è andata nel 2017 e 94 anni e mezzo mi è andata lì. Buon anima di mio padre invece sono andato via 12 anni fa. Però persi di così. Niente, io prima ne avevo 14 pastiglie. Poi sto calando, mi hanno eliminato parecchie pastiglie perché mi stanno andando bene. Io sono sempre sotto controllo però, grazie a Dio. Mi sento bene e giustamente un'alimentazione sana e poi ricostruzione, grazie a Dio. Sono abbastanza forte che riesco ad andare avanti bene. E poi le pastiglie a orario, proprio. Io per sicuro mi sono messo anche la sveglia nel telefono, quindi se qualche giorno sono indaffarato, mi sono al telefonino, ho tutto, ce l'ho sempre presso. Vieni, Gianni sei tu. Gianni, tu sei. Rompi coglioni. Io sono fatto così comunque, faccio correnti perché c'è qualche coglione, te lo dico chiaro e tondo, bastardo che ti mette la portante, non sono il tipo che mi incazzo perché non mi frega un cazzo da baracchino, c'è gente guasta, malata, decappata, a me me la puoi mettere, tanto non mi fa un cazzo. E scusa già, il mio Frasario però quando mi fa incazzare con una persona da fuori che trasmette, non dico un segnale forte, allora gli approfitto qualche stronzo a mettere la portante. Va bene, non fa niente, ne parleremo tra un momento più con calma, Gianni. Mi dispiace, faccio curetti, dai. Stammi bene. E buon 144 quando lo fai. Ciao Gianni. Ok, che voi stiamo facendo un questo normale, serio, manco stiamo parlando di cazzate. Cioè, se uno gli piace giocare così, a me non mi riguarda. Spengo il baracchino, mi giro da parte, accendo la TV, un 55 pollici e mi guardo qualche film bello. Quando ci sono mi curico, cioè mi addormento. Va bene, dai già, stammi bene, è importante siamo a farsi friggere. Ciao ciao. Ok, adesso si può giocare con la macchietta da pipì. Ciao ciao, buonanotte, chiudo. No, sì, di pattuglia, Fortuna. Ah, di ronda, sì, Fortuna.